America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. In questi ultimi tempi ci siamo molto occupati di politica, ce ne occuperemo di nuovo in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Direi di fare una pausa e tornare a qualcuno degli elementi sociologici, innovativi, economico-finanziari americani e di tornare in particolare su Uber. Ne abbiamo parlato qui ad America 24, credo siamo stati fra i primi a raccontare di questa storia, di questo servizio auto che poi è diventato controverso in Europa. Ebbene, Uber torna in the news, nella notizia, per varie ragioni. La prima è che in modo provocatorio Travis Kalanick ha dichiarato che l'amministratore delegato e cofondatore di Uber, che tra l'altro vale 18 miliardi, opera in 128 città, è disponibile in 45 paesi, e la notizia che ci ha dato è che sta creando 50.000 posti di lavoro al mese. Ecco, il dato può essere controverso, nel senso che sono persone che si aggiungono al servizio, non è chiaro se sono nuovi posti di lavoro aggiunti all'economia oppure se sono nuovi associati a Uber. Io credo che sia più il secondo caso. Ma la cosa più interessante di cui volevo parlarvi è che sono già nati dei concorrenti ad Uber in America, per esempio Lyft, combinazione di nuovo a San Francisco, è molto più piccolo, ma fondamentalmente offre lo stesso servizio e sta facendo recruiting. Cosa c'è dunque? C'è la concorrenza. Nasce Uber, c'è il concorrente di Uber. Uber fa concorrenza ai tassisti. I tassisti si infuriano perché dicono che è concorrenza sleale contro le regole. C'è una dinamica che prende corpo. C'è anche GetTaxi, tra l'altro, un'altra società simile nata in Israele. Insomma, è una realtà che non credo possiamo ignorare. E per poterne parlare in modo adeguato, io ho con me un ospite d'eccezione, microfoni di America 24, Salvatore Rebecchini, che è il commissario nell'autorità garante per la concorrenza e il mercato in Italia, quindi per l'antitrust. Buongiorno Rebecchini. Buongiorno. Lei, non so se ha sentito a volte la mia trasmissione, io cerco di incoraggiare un po' di flessibilità, perché insomma senza mercato, senza concorrenza, l'economia è ferma, non ci si muove. Ho parlato in passato di Uber e vorrei sapere lei cosa ne pensa. Certamente Uber è un'esperienza molto interessante per le implicazioni concorrenziali e per soprattutto quanto riguarda il miglioramento, la qualità del servizio per i consumatori. Il successo che sta avendo negli Stati Uniti è indice che c'è una domanda a cui Uber dà risposte. La seconda considerazione è quella che lei ricordava, che il successo sul mercato determina immediatamente la nascita di nuovi concorrenti e quindi le posizioni che apparentemente possono sembrare di leadership del mercato tendono ad essere naturalmente erose da altre iniziative analoghe, tutto sempre a beneficio dei consumatori. Ecco, scusi, approfitto per farle sentire una registrazione che ho fatto in una trasmissione dedicata all'argomento qualche tempo fa con Loreno Bittarelli, che è il presidente dell'URI, cioè l'Unione Radio Taxi Italiana. Sentiamolo. Prima che nascesse Uber già abbiamo la nostra app, insomma, da un paio d'anni che stiamo migliorando e implementando, tra l'altro, proprio in questi giorni. Io sono anche, come lei sa, presidente della Taxi 3570 di Roma. Abbiamo avuto l'onore di ricevere alcuni mesi fa proprio una delegazione di 90 presidenti di altrettante compagnie di taxi degli Stati Uniti d'America, e ci hanno fatto i complimenti, proprio sono venuti a vedere il nostro sistema organizzativo, come le nostre tecnologie, come funzionavano, sono rimasti entusiasti. Ha sentito Bittarelli, personaggio tra l'altro molto simpatico, dice che loro hanno un sistema concorrenziale, ma allora se ce l'hanno, perché bloccano Uber? Probabilmente ci sono anche altri aspetti che vanno considerati, per esempio quelli che possono essere gli obblighi di servizio pubblico che gravano sui tassisti. Però la cosa più interessante dell'intervista di Bittarelli mi sembra proprio il fatto che lo stesso, diciamo così, incumbent, lo stesso fornitore tradizionale del servizio di fronte alla concorrenza si sta attivando per rispondere alla concorrenza di Uber e di nuovo quindi per migliorare la qualità del proprio servizio. E nel complesso probabilmente probabilmente questa sua reazione aiuterà i consumatori a trovare servizi a migliori condizioni e forse ad aumentare anche la domanda complessiva del servizio di taxi. Se si facilita l'accesso al servizio riducendo le tariffe o facilitando la ricerca, probabilmente più consumatori saranno indotti ad utilizzare il taxi, e quindi è un gioco che non è più a somma zero ma con un quindi dal suo punto di vista Uber dovrebbe poter operare e ci si confronta sul mercato. Assolutamente. Bene, allora su questo abbiamo fatto quantomeno un chiarimento, ma parliamo del resto, perché secondo lei l'Italia dal punto di vista della concorrenza in generale è avanti o è indietro? Non c'è dubbio che nel campo dei servizi professionali come gli ordini che riguardano gli avvocati, i notai, i farmacisti, forse il grado di apertura del mercato italiano è inferiore a quello americano. Per quanto riguarda altri aspetti, per esempio penso al sistema del trasporto ferroviario, l'Italia per questo aspetto è sicuramente più avanti degli Stati Uniti, se non altro perché da noi ci sono due grandi operatori nel settore dell'alta velocità, quindi da questo punto di vista il consumatore italiano è molto avvantaggiato. Ecco, un'altra cosa, il governo, Matteo Renzi a parole molto favorevole all'apertura dei mercati, alla concorrenza, sentiamo dirgli delle cose che molti condividono. C'è un piano programmatico, ecco, lei condivide l'impostazione del governo, sta facendo abbastanza, bisogna passare alle parole ai fatti? Certamente il governo ha già fatto degli annunci importanti in materia di concorrenza, nel senso che si è detto disponibile ad approvare una legge per la concorrenza entro la fine dell'anno, e per questo ha sollecitato l'antitrust a presentare una serie di proposte, cosa che l'antitrust ha puntualmente fatto. Quali sono le più importanti? Ma a mio avviso le più importanti e interessanti sono quelle che riguardano il servizio postale, i servizi pubblici locali, il trasporto pubblico locale e anche gli ordini professionali. Sono tutte questioni su cui il nostro paese potrebbe fare molto con tutto sommato poco sforzo, e in questo anzi mettersi all'avanguardia anche tra i paesi europei nella linea di apertura di questi mercati. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter @MarioPlatero. E da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!